pensa che ero l'ultima volta. Però tutte volte era penultima volta. Io non tengo spazio dall'iPhone e del cuore. E dall'alfabeto non c'è sta letteratoria. Tu da nascondi su tutti i pregi e tutti i mentri. Io vivo tutti buoni a nascondere i miei difetti. Mi chilo come noi non sanno una regola. Sanno famiglia e tutto è riuscito a tenere. E per me sei poco sterile. Sta girando l'etichetta, l'elicottero e mi fa per l'America. Tutto fai un selfie sul potenere. Rindo il telefono finché non si cancella. Chilo come noi fanno sempre ritardo. E da pensarci un mezzo tu non l'hai mai fatto. E ti hai visto già 3000 volte in uno specchio. Pensando che sei bella ma potessi fare meglio. Tu resti sempre ferma eppure siamo una caressa. Tu ti spostassi solamente giù là. T'ho pensato forte che quasi a compari. Va a fianco a me come un fantasma. Come stai tu? Prendi sempre di più di quello che dai sotto una pioggia che non ti bagna mai, perché sai dare sempre tutto per scontato. Son cambiato quando sei cambiata te, e morivo se restavo a fianco a te. E il motivo lo sai anche te, anche te. Senza lieto fine, senza niente da dare, né niente da dire, sarò solo un ricordo. Cambi foto di sfondo, ho visto che hai smesso pure di seguirmi e forse in fondo hai ragione tu. Forse è meglio non sentirci mai più, così non ci feriremo mai più. Mento se dico che non ti penso affatto, e mentre sale l'effetto il nostro affetto va giù. Se sapessi come dimenticarti, io pur di vendicarmi giuro ci proverei. Ogni volta che restiamo distanti non riesco più a distrarmi e torno sempre da te. Che mi sai rovinare il mood, che non voglio bene ma il tuo. No, no. Yeah, abbiamo visto tutto andare in fiamme, burn. A me non frega niente dei pareri alle persone. Mi sembra assurdo che tu hai immaginato genitore. Un figlio correre con le tue gambe e i tuoi colori. Questa è una storia maledetta che si ripete. No, non si ferma, resti sotto a casa, stai pregando Dio scenda. Ci dovevo aiutare prima ma non c'era. Si puoi fare tutto quello che vuoi, tutto. Ma non pensare che dopo puoi ritornare qui. Anche se so che sono what you need. È più importante che il mio cuore non si fermi come questo beat. Tu resti sempre fermo, pure se il mondo cadesse ti sposteresti solamente più là. Scusa se ultimamente ti dimostro che non ho pochi dei sentimenti. Ma non sono più là, ma non provo più là, nah.